Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo palinsesto a Blu Radio Veneto, però c'è un ritorno che è sempre gradito, anzi non l'abbiamo mai interrotto e di questo siamo fieri e felici. Saluto il presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che è con me al telefono, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, noi non siamo in vacanza, questa è una cosa certa, ma qualcuno fortunatamente in vacanza ci va, anche se come sempre ci sono quelle cose che capitano che sono veramente sgradevoli quando prenotiamo una vacanza e poi le vacanze non sono mai come le abbiamo pensate. Francesco, viene da dire subito che l'Adico non va in vacanza d'estate e come ogni anno garantiamo sempre un servizio continuativo anche durante tutto il mese di agosto e anche durante la settimana di Ferragosto. E a tal proposito siamo qui per parlare di uno sportello denominato Vacanza Informata, proprio perché in questi giorni, complice il bel tempo, abbiamo notato una grande ripresa delle attività e addirittura con un aumento del 15% delle segnalazioni di problemi di vacanza rispetto a quelle che sono un po' le normali attività e rispetto a quelle che sono state un po' i numeri dell'anno scorso. Ecco, quindi sulle prenotazioni online avete avuto un aumento, ma forse perché sono aumentate proprio di fatto anche le prenotazioni online. Molta gente si affida anche a varie app sul telefonino che mettono in contatto i privati, no? Come per comprare qualcosa di usato si cerca di affittare anche magari l'appartamento piuttosto che... Allora, dobbiamo dire che in questo periodo la maggior parte delle fregature che sono riconducibili proprio alle vacanze hanno a che fare proprio con le prenotazioni online. Certamente un fenomeno che rispetto a qualche anno fa presenta dei numeri considerevoli, ma soprattutto anche un fenomeno che è spinto ed alimentato dal fatto che le persone utilizzano internet non solo per confrontare i prezzi ma anche per prenotare. Addirittura abbiamo, per quanto riguarda le vacanze online, secondo un rapporto della Mark Monitor, il 68% delle prenotazioni in ambito internazionale avviene addirittura via web. Questo per farci capire che sì, stare attenti a non farsi un po' coinvolgere troppo dall'emotività di un prezzo vantaggioso proposto, ma quello anche di adottare alcuni accorgimenti, perché poi se andare a recuperare i soldini spesi o agire anche presso sedi che non sono quelli di pertinenza rispetto a dove abitiamo può diventare anche oneroso, e per cui un po' di cautela sicuramente è preferibile adottarla, oltre che ai ritardi degli aerei o a voli cancellati che chiaramente in questo periodo non ci mancano mai da segnalare. Ecco, quali sono così quei piccoli consigli che potremmo dare così brevi mano attraverso i nostri microfoni? Beh, allora innanzitutto ci sono dei siti noti, possiamo anche citarli, Booking, TripAdvisor, i primi che mi vengono in mente, ma ce ne sono anche Expedia, che insomma, Groupon, che insomma rispondono anche di alcune scelte che il consumatore fa, ma ci sono anche tanti siti come per esempio pensiamo subito.it, dove le pubblicazioni sono libere e chiunque può fare e scrivere quello che vuole. E capitano segnalazioni di persone che hanno visto la classica casa dei sogni, poi si sono recati nel posto e addirittura oltre non esisteva la struttura, non esisteva neanche il panorama che veniva proposto. Per cui sinceramente il consiglio che si può dare è sempre quello di recuperare un contatto dall'altra parte, cercare di stipulare un'assicurazione, limitare gli eventuali acconti in fase di prenotazione cercando di rinviare il saldo alla destinazione e soprattutto considerare anche l'eventualità di stipulare delle polizze quando si fanno questo genere di prenotazioni. Diversamente, negli altri siti che ci siamo detti esiste la garanzia da parte del gestore, ma esistono anche le possibilità di ripensamento e di recesso qualora qualcuno qualche giorno dopo all'ordine desidera rivedere un po' quello che aveva pensato o acquistato. Per cui tutte situazioni che poi hanno come ultimo accorgimento quello di adottare delle cautele quando si utilizza la carta di credito, che è sempre preferibile, che è meno preferibile rispetto a quella prepagata, che nel caso ci carpiano i dati, comunque ci limitano sempre ad eventuali addebiti fraudolenti. Ecco, questa della carta prepagata è una cosa che veramente bisogna tenere in forte considerazione, secondo me. Va bene, quindi se ci sono altri problemi poi più grossi, ci si può sempre rivolgere all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, ci sono i contatti e anche sempre delle notizie interessanti. È un sito ben aggiornato da andare a vedere, perché c'è sempre qualche cosa da scoprire di nuovo, quindi complimenti anche per la gestione del sito. Carlo, ci risentiamo ancora per un prossimo appuntamento nella giornata di venerdì. Certo, io colgo l'occasione sempre per salutare tutti gli ascoltatori e augurare un buon lavoro alla redazione. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.